il sabato del villaggio. Sempre a quest'ora il nostro sabato del villaggio lascia il posto RadioTube. Per questo appuntamento con il meglio di, abbiamo scelto la puntata del 21 novembre. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Una puntata per parlare di una grande passione, sì, sì. Dai, una cosa. Voi parlate, che... io prendo appunti perché mi voglio preparare a una serie di, come si dice, binge watching. Ma solo di serie TV parliamo. Non parliamo d'altro, no? No, parliamo di serie TV, perché da un po' che non lo facciamo ci siamo tenuti un sacco di argomenti. Sì, infatti ogni tanto tu lo fai nel sabato del villaggio, io ero gelosissimo, ho detto, ma com'è sto fatto? Ti ho tagliato fuori, ecco. Così ogni tanto succede. Comunque, hashtag cancelletto RadioTube, sì. Oppure @MartaCagnola @DiBellasio. Perfetto, sì. Allora dimmi un po' cosa ti piace guardare in questo periodo. No, io ho guardato in questo periodo, l'ho detto diverse volte, Narcos, tutto di fila. L'hai finito? Sì, perché dovevo sperimentare Netflix, volevo vedere se era a prova di vecchietto come me, no? E devo dire che funziona tutto benissimo, è facile. Tu come lo usi? Ce l'hai? Io sì, ce l'ho, e devo dire che però sono sempre stata abituata al binge watching, l'ho sempre un po' fatto. Sì, come dite voi giornalisti che lo compravate in America, la carta di credito, sì. Tutto legale, la finanza, no, può stare tranquillo, no, era tutto legale, fatto triangolazioni, no? Spesso abbiamo utilizzato account DVD. Americani, esatto. Accedere. Invece Invece lo vedo con la macchinetta, quella, si possono dire delle parole che hanno delle marche, tipo Google, diciamo, Chromecast, sì, anche quello funziona benissimo. Io dal mio telefonino posso anche vedere delle cose tipo dei rigori di rock, no, ma ormai è nel format. Ormai tu lasci il telefonino acceso e lasci che mi ti arrivi nel WhatsApp. Mi voglio crucianizzare, capito? Voglio diventare come Beppe Cruciani. Ma no, io non riesco a parenzizzarmi neanche no, volendo. No, lo so, però neanche io tantissimo, non ho delle doti intellettuali. Quindi, ok, stendiamo un velo pietoso su questo secondo, di tempo drammatico sul doti intellettuali. Allora, non cambiamo argomento. Abbiamo deciso di parlare di serie TV. Sì. Tu hai iniziato a parlare di Narcos, che è la tua grande passione, sì, in questo periodo, prima che ti arrivassero WhatsApp in onda. Ormai, sì, è indisciplinatissimo. No, ho chiuso. Ha chiuso? Beh, ormai è una scena che facciamo di sempre. Di Narcos e di Netflix, perché dovevo provare la cosa, va di pari passo. Ok, allora io direi che ci possiamo dedicare un po' a tutte le serie interessanti che sono arrivate, che stanno arrivando. Ci facciamo dare qualche consiglio da un esperto. C'è. Ci facciamo una bella chiacchierata. Secondo me anche ai nostri ascoltatori interessa sempre molto, perché poi ci scrivono tantissimo quando parliamo di serie TV. Allora, il nostro target, la nostra stessa passione. Lui è un super appassionato di serie TV. È anche il channel manager di Iris, quindi lui fa un lavoro molto serio e molto impegnato dal punto di vista televisivo, però è talmente appassionato di serie TV che lui scrive anche su un blog che si chiama Serial Minds. È un amico degli amici del sabato del villaggio, perché l'abbiamo ospitato spesso. Lo presento anche a te in RadioTube, non te l'avevo ancora presentato. Abbiamo con noi Diego Castelli. Buonasera Diego. Buonasera. Ciao a tutti. Allora, la tua doppia veste è questa, cioè tu fai il televisivo per mestiere e il televisivo per hobby. È una tragedia. Esatto. Ma diciamo che io durante il giorno mi occupo di film, perché Iris trasmette soprattutto film, e poi quando torno a casa mi occupo di serie TV, e quindi più o meno abbiamo concluso le 24 ore così, diciamo. Allora ti chiedo subito se è vera questa cosa che le serie TV sono i nuovi film, così ti inguaio direttamente. Così mi metti in difficoltà. Così ti inguaio subito. Secondo me negli ultimi anni le serie TV, sotto certi aspetti, hanno superato i film di slancio proprio. Ci sono delle cose che le serie TV non si possono ancora permettere, o che vanno dall'avere un certo tipo di grande star e un certo tipo di divismo all'avere banalmente dei budget che in televisione non consentono di fare cose mirabolanti. Cioè, tu vai al cinema a vedere gli Avengers, hai un certo livello di effetti speciali. In televisione siamo ancora legati a standard un po' più bassi, anche se alcune cose tipo Game of Thrones o poche altre sono riusciti a fare cose che non pensavamo possibili fino a pochi anni fa. Però in termini di scrittura, in termini di approfondimento dei personaggi e di capacità di come dire, tirare dentro lo spettatore a un certo tipo di storia, secondo me ormai diciamo che li hanno raggiunti, dai, per non fare nessun torto però... a nessuno, perché poi ci sono ancora tanti bei film da vedere. Poi succede anche il contrario, che adesso sono le serie TV che iniziano a influenzare i film, tipo, non so, mi viene in mente Suburra. Sembra un po' influenzato da una serie di... Beh, certo, diciamo, un regista che ha fatto entrambi, esatto, come Stefano Solli, ma entrambi, appunto, ad alti livelli, il cinema e il film, un po' anche dal punto di vista stilistico, no? Qualcosa in comune c'è. Diego, cosa ne pensi? Sì, ma poi, voglio dire, il caso di Suburra è anche particolare, perché Suburra diventerà una serie di Netflix, quindi non è nata con quell'idea lì, cioè non dà un rimando dichiarato alla serialità, però sappiamo che lo diventerà, quindi ormai le cose si compenetrano. Poi voglio dire, poi pensiamo anche agli attori, no? Cioè ormai non c'è più, ormai è tutto molto fluido, non c'è più un'idea di un attore che diventa famoso per forza con il cinema e poi quando passa alla TV viene considerato abbassato in qualche modo. Non è più così, e non è più così il contrario, nel senso, ci sono grandi attori di serie TV, penso, non lo so, a Bryan Cranston di Breaking Bad, che nel momento in cui diventano strafamosi con una serie TV vengono corteggiati dal cinema, perché hanno già una fanbase talmente ampia e talmente affezionata che correrebbero al cinema a vedere qualunque cosa facesse lui, anche se non c'entra niente col personaggio che amavano. Quindi... Tra l'altro poi succede questa cosa nei festival del cinema ormai da un annetto, forse un paio d'anni, le star delle serie TV vengono acclamate più delle star del cinema, e quindi succedono anche cose abbastanza imbarazzanti, perché il mondo del cinema questa cosa non l'ha ancora assorbita del tutto. Sì, tra l'altro c'è il meccanismo curioso, è che proprio per come lavora la serie TV, cioè che lavora sul lungo periodo, su anni di affezione da parte dello spettatore e su ore e ore di racconto sugli stessi personaggi, succede che ormai i divi della televisione sono in qualche modo identificati col personaggio che fanno molto più che non i divi del cinema. Cioè Brad Pitt è Brad Pitt, e alle volte è talmente famoso in quanto Brad Pitt che vederlo al cinema quasi non si riesce a distinguere il personaggio dall'attore, cioè dici questo è Brad Pitt, cioè lo vedi ed è Brad Pitt. Invece gli attori che diventano molto famosi, molto amati con una serie TV, finisce che quando vanno a fare il cinema, penso ad esempio, abbiamo citato Bryan Cranston, quando l'ho visto in Godzilla ho detto cosa c'ha Walter White in Godzilla? È vero. Ecco, però anche J.R. era così, anche Larry Hagman, tipo, è una cosa che c'era anche prima. Beh, devo dire Larry Hagman, che però ha avuto due vite. Sì, perché c'era anche Strega per amore. Il mio, però lì eravamo, il mio mito, sì. E poi... No, ma infatti non sono dinamiche, come dire, specificamente nuove. Però hanno avuto un boost, un'accelerazione dovuta anche poi a internet, a tutto il rimpallo continuo che si fa tra una piattaforma e l'altra, per cui ormai veramente è tutto un grande calderone in cui poi l'appassionato si districa con grande piacere, invece magari quello che ci arriva e non sa nulla poi si trova sempre un po' spiazzato, diciamo. E per questo noi abbiamo anche una guida come Diego, che ogni tanto chiamiamo per orientarci in tutte le cose nuove da vedere. Ma che cosa dobbiamo guardare però, Marta? Allora, facciamo dopo una cosa, pausa. Adesso ci facciamo una brevissima pausa. Prendete carta e penna, chiediamo iPadino, tutto, esatto, tutte queste cose qua. Prendiamo nota, sì? ci facciamo raccontare tutto da Diego. Mi raccomando, tu se hai bisogno io di consigli... Io sono pronto per ecco. No, perché siccome ho finito Narcos, allora vorrei iniziare qualcosa. Allora adesso ti fai dire tutto da Diego tra pochissimo, perché pronto. C'è il traffico del villaggio come al solito, e poi ci ritroviamo ancora con questa puntata speciale serie TV di RadioTube. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà, il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Questo weekend, la spesa alimentare consapevole, meno sprechi, più tradizione, di Laura Bettini. YouTube. Rieccoci insieme con questa puntata speciale serie TV di RadioTube. Ne stavamo parlando troppo poco in questo periodo. Mai ne avevamo parlato. Cioè, infatti ne parliamo sempre fuori onda. Sì, parliamo sempre nella vita fuori dalla trasmissione, ne parliamo sempre. Poi in trasmissione devo avere dei suggerimenti. Funziona come per i libri, le serie TV. C'è la sharing opinion economy delle serie TV. Sì. E quindi noi ci dobbiamo fare aiutare. Noi ci facciamo aiutare da un super esperto che abbiamo in linea. Dicevi, per esempio? No, io sto vedendo questa pubblicità di Quantico, mi piace anche il noi nome. Ce l'abbiamo, sai che ce l'abbiamo in radio la pubblicità di Quantico? Ah, non lo sapevo. Legata alla zanzara, di questa... che dice basta zanzara, allora chiediamolo subito al nostro Diego Castelli. Diego, eccoti ancora in che linea con noi. No, Diego, ci sei? Sì, eccolo qua, channel manager di Iris, ma io lo chiamo sempre per farlo parlare di serie TV, non per il suo primo lavoro. Ma dopo parliamo di Iris. Sì, parliamo anche di Iris. Serialminds.com, il sito su cui c'è di tutto di più. Guarda, ti farei bellissimo, milioni di domande. Ho guardato. Un grandissimo sito, c'è tutto. Ma 45 persone di redazione, credo. Sì, c'è il mondo. In realtà ci sono poche persone con pochissimo tempo libero. Cioè, però tutto quello che hanno lo dedicano a questo. Complimenti, va bene. Allora, Quantico. Giuro solennemente di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici esterni e interni. Di serbarle fedeltà e vero affidamento, senza alcuna riserva mentale o intenzione elusiva. E di bene fedelmente adempiere ai doveri della carica che sto per assumere. Dio mi aiuti. Quantico, lo guardiamo? È appena iniziato Fox. Quantico, appena iniziato in Italia, secondo me bisogna fare una distinzione, nel senso che è una delle migliori novità dal punto di vista degli ascolti in America, quindi è già una buona cosa, nel senso che sappiamo che non finisce domani, che è una cosa che poi gli appassionati di serie TV hanno sempre paura, cominciano le 10 puntate e poi glielo cancello. Dubito che succederà con Quantico. Quantico è, secondo me, una buona serie. È una serie però che, come dire, mira un target abbastanza preciso, un target soprattutto femminile, a cui piace un certo tipo di storia molto intricata, con anche delle componenti romantico, un po' morbosette di questo tipo qua. Se piace questo tipo di genere, allora è perfetta, nel senso che fa quello che deve fare, ha un grande ritmo, non si ferma un momento, interpreti bellissimi. Ma tipo Scandal? Sì, perché infatti noi all'inizio, sia vedendo il trailer che vedendo i primi episodi, sembrava una specie di Grey's Anatomy, però fatto all'FBI. In realtà c'è anche un pochino più di, non è solo amori all'FBI, che sarebbe un po' poco, anche se continuano a saltarsi addosso uno con l'altro. Beh, diciamo che però potrebbe essere interessante per fare sì, un po' di diversivo in queste serie TV. Sì, certo, poi non va considerata come una serie particolarmente impegnata. Se si pensa di vedere una cosa che cambia la vita o che cambia la percezione delle serie TV, ecco, questo non lo fa, ma neanche ci prova, poverina. Quindi non è Homeland, quindi è molto lontano. No, esatto, non ha senso nemmeno chiederglielo, è fatta per essere un buon intrattenimento e tutto sommato lo è. Quindi hai già capito un po' i gusti di Daniele, perché già ti ha citato Narcos e Homeland. Esatto, ottimi gusti mi sembra. No, a me piacciono, lo ammetto, le serie che in qualche modo alludono alla realtà, raccontano fatti con personaggi storici e così, perché mi piace vedere come la realtà possa essere reinterpretata dalle serie. Quindi House of Cards sicuramente, tutte quelle italiane tipo Gomorra, Romanzo Criminale, insomma, vabbè, però non mi sembra di essere meno in buona 1992 compagnia. No, 1992 no, perché era una serie TV a tesi e allora mi piaceva di meno. Diego, cosa consigliamo allora per Daniele con questi gusti e per tutti gli ascoltatori che si fossero riconosciuti un po' in questi gusti? La verità gusti. È che a sentire questi gusti mi viene da consigliare una cosa che nessuno di noi ha ancora visto e che in realtà uscirà il 14 di febbraio prossimo. E che quindi dovremmo tenere d'occhio, che è Vinyl. Adesso non so, fantastico! Che è la nuova serie. Ho visto il trailer su Serial Minds. Esatto, uscirà, è prodotta da HBO, uscirà, cioè è prodotta poi da Martin Scorsese insieme a Mick Jagger. E racconterà degli anni 70 con il protagonista che è un discografico, diciamo, uno che ha una casa discografica che sta fallendo e sta cercando nuove idee, nuovi sound, nuovi personaggi per rilanciarsi. È proprio sesso, droga e rock and roll nella maniera più classica. Quindi un'altra serie che parla di mondo discografico dopo Empire e Nashville, una sulla musica rap e una sulla musica musica country. Sì, che in realtà Nashville è arrivata prima, ha un 3-4 anni, non è riuscita a fare lo stesso botto di Empire, ma probabilmente perché Empire andava a prendere una nicchia che non era neanche tanto una nicchia, che ancora le serie TV non erano riuscite a coprire nel modo giusto. Cioè, innanzitutto probabilmente ha una componente di pubblico afroamericano molto maggiore rispetto ad altre serie, è banale dirlo, nel senso sono tutti afroamericani. In più parla di rap, che è un argomento che di solito si tratta poco nella TV americana, e mescola questi elementi che possono interessare anche pubblici che finora erano magari meno interessati a guardare un certo tipo di serietà televisiva, con però una componente di soap e di intrigo familiare, che invece quella funziona sempre. Mi capitava di parlare col mio socio tempo fa e lui non riusciva magari a capire bene perché piacesse così tanto, perché alla fine sembra molto ripetitiva a uno a cui non piace quel genere lì, perché comunque è un continuo da parte di padri, figli, mogli, amanti, è un continuo prendersi e lasciarsi, un continuo ti voglio beautiful. Bene, ora ti odio, così. È un po' beautiful. Però quella, esatto, però beautiful, alla fine sono 30 anni che Ridge, Brooke e Taylor continuano a sposarsi uno con l'altro. Quella cosa lì funziona, cioè se fatta con criterio funziona. Poi vogliamo salire di livello e dire è grande televisione? Magari no, però qua bisogna anche tirare. Ma c'è ancora peraltro Beautiful? Beautiful c'è ancora, sì. Sì, c'è ancora. Mamma. Ci sono tanti di Oscar alla carriera. È cambiato Ridge. Ah, sei consumato quello vecchio. Chi lo fa? No, no. Non si può più, quindi se ne arriva un altro. No, anche perché la povera attrice che faceva Brooke non ne poteva più di vedere lo stesso, e sì, quindi ha detto cambiamo almeno l'attore. Personaggio non conosco le dinamiche precise che hanno portato, però non escludo che ci sia anche questa. Io devo anche salutare il socio di Diego Castelli, Marco Villa, fatemelo salutare tanto. Salutiamo. Perché, vabbè, posso dirlo, è fidanzato con una delle mie più care amiche, quindi possiamo dirlo, tutto in famiglia, tutto in famiglia. Tutto in famiglia, allora, dobbiamo parlare di Iris. No, ma aspetta, chiediamogli ancora un po' delle serie TV, poi gli chiediamo anche di Iris. Ma no, perché volevo sapere. Sai perché? Ci sono due cose che mi hanno... Due curiosità che mi sono venute fuori dai discorsi di Diego. Intanto, tu hai parlato di pubblico afroamericano. In questo periodo, uno dei temi più dibattuti è quello delle diversità nelle serie TV americane. Se ne è parlato anche, esatto, su Repubblica questa settimana. Non citava peraltro quello più famoso in questo periodo, che è Aziz Ansari, che sta facendo veramente... Filippo Brunamonti su Repubblica ha raccontato come la serie diventa senza confini perché Netflix è sempre più protagonisti, appunto Narcos, Scandal, quelli che avete citato ora. E quindi è anche quello un aspetto importante, che si fonde poi col fatto che alla fine queste serie sono talmente globali che devono andare a prendere un sacco di pubblici diversi. Sì, tra l'altro tu adesso hai citato indirettamente Master of None, che è un'altra delle nuove serie di Netflix, questa volta una comedy, in cui tra l'altro c'è un episodio veramente, veramente bello a questo riguardo, che appunto è il protagonista è Aziz Ansari, o tu l'hai chiamato Ansari, non so se tu... Io leggo, a furia di leggere i nomi poi non so mai come si pronuncia. No, sulle lingue Marta non può essere contraddetta, cioè allora è una cosa di contratto. Ma no, perché dipende se tu lo pronunci all'americana, vabbè, ma non... Io lo pronuncio alla cagnola. E comunque lui adesso ha fatto questa... Lui viene da Parks and Recreation, che è una serie che Marta... Che è la più bella di tutte. Abbiamo parlato tante volte. Diego sa che io sono innamorata, esatto, di quella serie. Lui lì faceva in qualche modo il coprotagonista, la spalla, e in questi casi qui dici adesso diventa protagonista, regista, sceneggiatore di una serie nuova, chissà se sarà in grado. È venuto fuori che è assolutamente in grado, è una serie molto autobiografica sulla sua, diciamo, sulle sue difficoltà anche di diventare un attore famoso nel circolo americano, e però appunto dedica tutta una puntata al fatto di essere indiano e al fatto che la TV americana può permettere, nel caso concreto, che ci sia una sitcom con un indiano, ma non permette che ce ne siano due. Lui si continua a chiedersi perché, ma se siamo bravi e siamo due indiani, non possiamo fare tutte e due. Perché alla fine anche certe serie che sembrano molto multiculturali, in realtà però non riescono a superare certe barriere. Per cui ci sono le sitcom all black, ci sono poi quelle, ultimamente ne sono già uscite un paio, con tutti asiatici, perché quella è anche, tra virgolette, una nuova moda. E poi ci sono le serie che sono multi, in cui però magari c'è un gruppo di bianchi a cui viene aggiunto una persona di colore, che venga dall'Africa, che venga dall'Asia, che venga è indifferente, e però non si riesce ad andare oltre, e finisce che fanno magari le macchiette, così come succede in quell'episodio in cui lui, che è nato in America e quindi parla benissimo l'inglese, non ha nessun accento indiano, va a fare l'audizione e all'audizione gli chiedono: però potresti parlare con l'accento? Dice: ma perché? Ma perché? Ma io sono nato, qui, se io sono divertente anche senza usare l'accento, perché lo devo fare? Quindi è un tema che si sente ancora fortemente, anche se nel moltiplicarsi dei pubblici, nel moltiplicarsi delle piattaforme, in un momento in cui tutto diventa globale, anche le grandi case di produzione si sono rese conto che bisogna fare i conti con un pubblico che è sempre più vasto, più variegato, non solo in termini di gusti, ma anche in termini di provenienza, e quindi allargarsi il più possibile. Io ti farei parlare ancora qualche ora, ma però adesso italiano. Abbiamo una brevissima adesso glielo chiediamo, dai, abbiamo una brevissima pausa. Poi ci ritroviamo tra poco ancora con Diego Castelli, dobbiamo chiedergli ancora un po' di consigli, anche voi qualcosa di italiano. Se c'è la pubblicità di Quantico è un caso, è un caso, non lo sappiamo, ci affidiamo alla regia tra poco. Secondo me, essere buoni significa non arrabbiarsi con nessuno e picchiare nessuno. Come sarà il 2016? Come si immaginano i bambini la vita nel futuro? Perché si dice buon anno? Lo scopriremo a Terra in Vista, il 2016 spiegato a mio figlio. Sono Federico Taddia e vi aspetto, insieme al filosofo Telmo Pievani, giovedì 31 dicembre alle 21 e venerdì 1 gennaio alle 9, con racconti, favole, ospiti e tante curiosità. Per grandi e piccini. Radio 24, feste in... Ancora più presenza, ancora più informazione, ancora più storie, ancora più ascolto. Per noi è questa la vera festa. Tanti auguri da Radio 24, perché la passione si sente anche a Natale. YouTube. E in questo sabato pomeriggio dedicato al meglio del sabato del villaggio e a RadioTube stiamo riascoltando la puntata del 21 novembre. E rieccoci insieme per questa puntata di RadioTube che stiamo dedicando come speciale alle serie TV. Speciale serie con TV. Con Daniele che sta prendendo serie appunti. Nota, sì. sta prendendo nota di tutto. Sì, assolutamente. Ne ha già raccontate tantissimo il nostro ospite. Il nostro ospite ce l'abbiamo. Tutto, esatto. Una cosa incredibile. Io ti ho detto che era anche molto veloce. Per cui io qui per prendere appunti devo andare veloce. Tu non lo conoscevi ancora. Lo so. Io ti ho detto che era un'enciclopedia vivente. Diego Castelli. Allora, Diego. Eccolo qua. Allora, intanto, vabbè, scrive e si occupa di serialminds.com, però ha un altro ruolo, quello ufficiale nella vita, che è di channel manager di Iris. Come va Iris? Perché è un canale che va benissimo a Mediaset, Iris, è un canale di film molto molto visto. Iris continua ad andare bene, continuiamo a essere la prima rete in prime time tra le reti tematiche, quindi diciamo dopo le grandi generaliste. Facciamo soprattutto cinema, facciamo cinema che ci piace e cerchiamo di come dire, incorniciarlo nella maniera migliore possibile. Va bene, sì. No, è bello perché poi incorniciarlo è importante, nel senso che non è che uno mette lì i film uno dietro l'altro, no? No, assolutamente. No, qua tutto il lavoro qui, a prescindere dal fatto di avere o no una buona quantità di film e di avere dei film di qualità, quelli diciamo meglio dall'azienda, non so come dire. Poi il mio lavoro è quello lì, quello di proporli allo spettatore in una maniera che possa trovare il suo gusto, possa trovare la sua affezione, possa trovare il momento giusto in cui lui ha tempo e voglia di vedere esattamente quella cosa lì. Sì, perché spesso ci si riesce, a volte no, però so. Non vi capita spesso che amici vi dicano: ma non ci sono più, a parte Iris, a parte i canali che mandano solo film, non ci sono più i film in TV? E quindi inizia a esserci un po' la malinconia, no? E quindi vengono lì. è una dinamica vera che da un certo punto di vista a noi è la vostra fortuna, certo. A noi dire, però avete captato evidentemente una domanda, c'è cioè, come una, un po' di nostalgia del film in prima serata. Sì, cioè, i film hanno cominciato a fare un po' meno sulle grandi generaliste, fare un po' meno nel senso di ascolti, probabilmente dovuto al fatto che comunque c'è grande offerta, certo, su piattaforme altre. E quindi la generalista ha cercato e cerca di trovare anche alternative proponendo altre cose, a parte ovviamente eccezioni che rimangono singole serate che continuano a performare bene. Questo chiaramente ha fatto un po' la nostra fortuna, perché noi che siamo diciamo più piccoli, abbiamo un obiettivo più basso, per quanto cerchiamo di battagliare con i nostri diretti concorrenti, avendo un obiettivo più basso ci possiamo permettere di continuare a fare quel tipo di offerta, sapendo che possiamo, quello che per noi è un ottimo ascolto per una Canale 5 evidentemente non lo sarebbe, e quindi all'interno poi della grande famiglia tutti i pezzi, certo, vanno al loro posto, diciamo. Beh, è interessantissimo questo discorso, qualche volta vienici a trovare che così parliamo. C'è una sedia qui tra noi, esatto, due che ci divide, è pronta e ti aspetta. Ci racconti un po' come si fanno i palinsesti di una rete. Ecco, quello sai, veramente mi piacerebbe. Ti piacerebbe, lo invitiamo. Quello è il lavoro di 8 ore al giorno, quindi sono ecco. Tra l'altro io guardavo, mi piace sempre la tua bio su Twitter, chiocciola Diego Castelli 82, channel manager di Iris, fondatore di Serial Minds, aspirante romanziere, cercate Incipit su Amazon, poca vita sociale ma di qualità. Bene. Bello, bravo Diego. Perché con Marta. Diego, senti, mi dai un po' di consigli in batteria, dai, dici cosa guardare, perché Daniele ha iniziato questa puntata dicendo voglio dei consigli per fare le maratone durante magari le vacanze di Natale, così cominci a prepararti. Allora ve ne dico tre di cose che sono già cominciate l'anno scorso ma che non sapevamo se sarebbero state belle, anche quest'anno lo sono, e quindi è il momento di recuperare. Perché bello, il vero questo esperto, è il vero consiglio, il vero esperto è il vero dice queste non ti mollano, non ti mollano, perdi tempo e soprattutto va magari a migliorare, perché si può permettere all'inizio magari una serie in parte, quindi sentiamo, questo è il vero consiglio. Vabbè, uno, quello facile è Fargo. Fargo aveva avuto un'ottima prima stagione, ci aveva stupito per la capacità di stare dietro al film dei Coen di 20 anni fa in una maniera che appunto non ci aspettavamo che riuscisse a tenere quella qualità lì. È arrivata la seconda stagione e è bella tanto quanto. Siccome eravamo rimasti scottati dalla seconda stagione di True Detective, invece è un po' inferiore rispetto alla prima, invece Fargo sta tenendo un livello altissimo, quindi se non l'avete ancora vista, quella sicuro. Un'altra è The Affair, di cui già credo parlammo l'anno scorso. Che io adoro. Anche The perché Affair, anche qua va bene anche per la femmina che vuole un po' di non è molto da femmina, è da femmina ma anche da maschio. Va bene, sì, lo chiarisco ancora una volta agli ascoltatori. La mia classificazione da femmina e da maschio è a livello scuole elementari, fiocco rosa e fiocco azzurro, molto basica. Sì, ma è vero, ma non c'è nulla, voglio dire, poi si pensa sempre che non dire che è da femmina e da maschio. Vergognarsi, nel senso, statisticamente ci sono serie che piacciono più alle donne, non c'è mica niente di male. E The Affair aveva una prima stagione molto intensa, molto bella, però si pensava che, siccome parlava di un tradimento, una volta consumate tutte le questioni relative al tradimento, potesse finire lì, cioè una seconda stagione perché. Invece la seconda stagione che prosegue... Un secondo tradimento. Anche... Come? Un altro tradimento, cioè non c'è limite. Invece sulla storia del primo tradimento e cosa succede ai protagonisti dopo che c'è stato il tradimento. E però la cosa quasi sorprendentemente continua a tenere una tensione molto alta, anche perché comunque c'è un po' di torbidume anche criminale sotto, e quindi diciamo che danno un filo più spazio a quella componente lì per coprire il vuoto lasciato dalla fine di altre questioni, e continua a essere una serie un po' pesante, perché diciamo puntate di un'ora piena che comunque si digeriscono a fatica, ma quando le digerite sei proprio soddisfatto. Sì. Io devo dire che però mi fa un po' paura la sigla, mi mette un po' ansia la sigla, salto. Quella non la guardo. Okay. Beh, ma le sigle si sa che poi dopo un po', quando le sentite 18 volte, poi sì. Ultimo consiglio, che in questi giorni sul nostro sito stiamo pompando molto, diciamo, è The Leftovers. Anche questa è una serie di HBO scritta da Damon Lindelof, che era tra gli scrittori principali di Lost. Una prima stagione, ricordiamo, il concetto era il 2% della popolazione mondiale sparisce nel nulla, proprio puff, e la serie racconta di quello che succede a quelli che rimangono, ed è il titolo della serie, The Leftovers, cioè i rimanenti, i rimasti, chiamiamoli così, gli avanzi addirittura. E prima stagione bella, però anche quella un po' intensa, un po' pesante. Stiamo vedendo una seconda stagione che si è impennata di brutto. Quando si parlava le volte le serie possono migliorare, delle storie si sta migliorando. Ci piaceva già tanto la prima stagione. La seconda è riuscita anche a eliminare alcuni momenti morti, per cui in tutte le puntate ci sono almeno uno o due momenti che rimane lì a bocca aperta. E certo, bisogna arrivarci con l'idea di vedere una cosa che non è in nessun modo realistica e soprattutto una cosa che pone un problema, diciamo, soprannaturale, e non lo risolve e non lo risolverà mai, perché il fulcro della serie è vedere quello che succede alle persone che rimangono. Di sapere esattamente cosa è successo non ce ne frega niente, che è una cosa che alle volte qualche spettatore può vivere un po' male, no? Perché magari quelli abituati a vedere i crime, per cui alla fine si sa tutto preciso, le serie dove invece per costituzione non si sa niente o non si saprà niente o comunque il fuoco è da un'altra parte, può creare qualche problema. Però io la consiglio molto perché è molto affascinante. Hai qualche curiosità ancora, Daniele? No, siccome io volevo, sapere perché sto scrivendo. No, non solo scrivo, perché si scrive. Sto prendendo appunti. Volevo sapere, siccome dopo ne parliamo, a mia grande richiesta, solo mia, ti è piaciuto Narcos? Narcos mi è piaciuto molto, sì. Perché? Che cosa ti è piaciuto di Narcos? Ma perché Narcos è una serie apparentemente complicatissima, che in realtà non lo è. Nel senso che uno può pensare mi devo vedere la biografia di un trafficante di droga ambientata 30 anni fa, 30-40 anni fa, in Sud America, mezza parlata in spagnolo, mezza parlata in inglese. Cioè, dà questa impressione di essere una cosa estremamente pesante da avvicinare. In realtà scorre via con una semplicità sconcertante, cioè è quasi documentaristica nel suo, considerando anche la voce fuori campo che racconta il retroscena, diciamo, del lavoro della polizia. Cioè tutto ciò che è complicato viene in qualche modo diluito in un racconto molto da Piero Angela, se mi passate il termine, che rende tutto comprensibile, e allora ti lascia il tempo per focalizzarti su un paio di interpretazioni eccezionali, come quella del protagonista, che è un cattivo di quelli da cinema, visto che si diceva all'inizio, di quelli che è cattivo, sei costretto ad odiarlo, però un po' lo ami anche proprio per la grandezza del personaggio. Alcuni sono rimasti infastiditi, senza fare spoiler di nessun tipo, per il fatto che non finisce. Io sono rimasto infastidito. A me però secondo me questo è dovuto a uno scarto. Adesso che è arrivata Netflix, comunque si comincia a parlare di serie su piattaforme diverse in cui tutti gli episodi vengono visti in una volta sola, mi rendo conto che ci sono alcuni scarti nella comprensione da parte del pubblico. Cioè il fatto che escano tutti gli episodi in una volta, alcuni pensano allora finisce lì. Questione di errata percezione, comunque rimane il concetto di prima, seconda, terza stagione, semplicemente il raggruppamento degli episodi e l'offerta degli episodi al pubblico viene fatta in maniera diversa, però non c'era scritto nessuna parte che finiva, e anzi di solito se vanno bene poi vanno avanti anche su Netflix, quindi su questa cosa qui bisogna, come dire, capirsi subito. Sì, però hai colto un punto giusto, perché io dopo averla vista mi sono goduto tutto, poi alla fine speravi di non possiamo spoilerare. Narcos 2, certo, la vendetta. Diego, grazie per essere stato con noi. Noi allora ti aspettiamo in studio la prossima volta. Grazie a voi. Aspetta che ti disannuncio tipo le canzoni, no? Allora, channel manager di Iris, fondatore di serialminds.com, su Twitter @DiegoCastelli82, dai, torna con noi, ti vogliamo in studio la prossima volta, così tieniti ancora un po' di serie di cui parlarci, abbiamo un sacco di cose da chiederti. Sono sempre pronto. Ciao. Ciao Diego, grazie. Ciao. Noi ci sentiamo tra piccola poco. Piccola pausa per il traffico. Tutti i sabati con voi in diretta qui su Radio 24, la compagnia dei conti della Belva, cioè Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffei, Mario Seminario e Renato Cifarelli, tutti i sabati alle 10 e alle 12, perché i conti della Belva lo sapete, ma comunque ricapitoliamolo, perché si tratta di spiegare a voi, noi, ma soprattutto di dirci voi in diretta chiamando, ma è vero o meno che la ripresa italiana è così forte come dicono? È vero o meno che lo Stato non è vero che spreca tanti i suoi soldi? È vero che paga i suoi debiti? È vero che non è vero che paghiamo troppe tasse? Insomma, un inizio di fine settimana dalle 10 alle 12 in diretta con un po' di sana indignazione. I conti della Belva, mi raccomando, ascoltateci. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Radio Tube. Io sono Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Plata o plomo, capisci che serie, o il piombo, perché c'hai in mano una bella pistola. Narcos, ne abbiamo parlato nei primi tre blocchi di questo speciale TV. Ogni tanto tornava questa serie che Daniele Bellasio sta amando molto. In questa finita, vista tutta. Però adesso Narcos 2, perché l'hai appena detto che ti ha lasciato arriverà, un po' sospeso. Sì, mi ha lasciato, adesso chiediamo al nostro ospite se anche lui si è un po' arrabbiato. Se anche lui si è arrabbiato perché non è conclusa. Allora, abbiamo deciso di parlare di Narcos in questo speciale, per concludere questo speciale serie TV di questo appuntamento, sì, per questo sabato di Radio Tube, con un appassionato di Narcos. Sì, un grande comunicatore. Siccome io gli ho chiesto come preferisce essere presentato, lui ha detto: nella vita mi guadagno da vivere facendo il lobbista e il comunicatore. E quindi così noi lo presentiamo. Così noi lo presentiamo. Chiocciola Claudio Velardi. Ciao. Buonasera, Claudio. Claudio. Qua. Buonasera a voi. Stavamo guardando il tuo profilo di Twitter e non capivamo se nella foto profilo sei sconfortato, ridi o se è... una foto volutamente ambigua. Penso che quel bravo fotografo che me l'ha scattata, io perlomeno così la vedo, e anche i miei, come si dice, i follower. La interpretano, uh-huh. a volte la prendono per una cosa di sconforto, altre volte per una, invece per una risatina che sotto la sto facendo sotto i baffi. Io subito, no? Io da pessimista ho visto subito lo sconforto. Bellasio invece ha visto, no, io ho visto subito Brianino. Non vedi che è uguale, ma è Brianino. Allora, comunque, Brianino, ne facciamo un'altra di trasmissione, perché sono espertissimo anche da una puntata su musica, Brianino, un grandissimo appassionato di musica. Allora io porto di musica minimalista, vabbè, quante altre trasmissioni, fantastico. Allora noi abbiamo deciso, o meglio Daniele ha deciso di chiamarti, vabbè, perché ha detto: ho visto un tweet di Claudio Velardi, è come me un fan di Narcos. No, guardate ragazzi, io sono diciamo un tecno entusiasta, perché quando è arrivato Netflix me lo sono subito preso, ecco. Netflix è meraviglioso perché si scarica velocissimamente, le immagini sono nitidissime, e avendo Netflix a disposizione si può risolvere l'unico problema che c'è di fronte alle serie, che è quello dell'appuntamento, diciamo, settimanale o quello che si vuole. È vero che questo problema tu lo puoi risolvere anche con i vari altri dispositivi, quelli di Sky e così via, ma a parte che su Sky, poi di Sky non parlo perché ne dovrei parlare male per come funziona, ma la lasciamo perdere. Ma invece con Netflix tutto avviene velocissimamente, e quindi io quella serie, io Narcos me la sono vista penso in fine settimana. Narcos era un po', diciamo, la prova d'ingresso nel mondo, sì, della televisione italiana di Netflix. E ti è piaciuta perché? Li dico in ordine sparso i motivi, perché Wagner Moura è un attore fantastico. Diciamolo subito che Wagner Moura è l'attore che interpreta il ruolo di Pablo Escobar, il grande. È brasiliano, sì. Parla in uno spagnolo che mi dicono non buonissimo. Sì, infatti io sono molto distratta dall'accento brasiliano. però io invece questo non lo colgo. E sono bellissimi i dialoghi in spagnolo, peraltro per noi sono anche molto, come dire, riconoscibili. Sì. poi questo mix di documentario, fiction, pezzi di storia e scenografie fantastiche, perché questa Colombia deve essere davvero meravigliosa, tutto questo diciamo fa il contorno è questo qui. Poi c'è la storia che è fortissima, perché naturalmente questo signor narcotrafficante che poi sta per diventare presidente della Repubblica colombiana e tutto quanto il resto naturalmente è un personaggione, parliamoci chiaro, insomma, storia verissima di Pablo Escobar. La serie gioca anche su quella classica ambiguità di cui c'è sempre bisogno, per cui anche il peggior criminale finisci per esserne vagamente affascinato, diciamo la verità, anche se ne combina di tutti i colori, ne fa di efferatissime il buon Pablo Escobar. C'è del bene anche nel male, sì. Come dire, un po' in maniera disordinata, però ho detto una serie di motivi per cui questa serie mi è proprio piaciuta assai. Ecco, ma questo fatto che sia ambiguo il rapporto con la realtà, perché tra l'altro c'è anche la scritta che in realtà... È bello. Ti piace o ti disturba? No, mi piace moltissimo. Perché è un elemento, secondo me, di forza della serie. Il fatto che ogni tanto tu vedi che ti appare sullo sfondo Reagan o delle immagini vere di repertorio, di girato effettivo, è un punto di forza. Poi, naturalmente, oramai la confusione, diciamo, tra la realtà e l'immaginario è tale, questo lo sappiamo per tanti altri mille motivi, che tu non riesci manco a distinguere fino in fondo qual è l'immagine di repertorio e quale invece il girato, dove è il confine tra la fiction e la realtà. Ma ci sta, questo è un elemento di fascino in più, diciamo, di una serie come questa. Pablo Escobar a un certo punto, lo accennavi Daniele, all'inizio della sua carriera di narcotrafficante aveva deciso anche di diventare presidente, quindi c'è un momento di avvicinamento alla politica e soprattutto c'è da stabilire il gioco delle influenze e dei poteri tra il narcotraffico, quindi il cartello di Medellin, e la politica vera e ufficiale della Colombia. Che cosa hai pensato e provato quando hai visto quelle ricostruzioni politiche? Le ricostruzioni politiche sono fatte molto bene, diciamo, dagli sceneggiatori, nel senso che lui diventa un perfetto politico Pablo Escobar. Mm-hmm. I suoi discorsi sono fatti da un grande spin doctor, diciamo, evidentemente, e sono perfetti, perché si coglie tutto quell'elemento, diciamo, del populismo, di un populismo, come dire, violento, forte, che però prende una realtà come quella, diciamo, centro e o sudamericana, ed è un elemento anche questo, sia di forza della storia che di interesse per me o per noi, diciamo, che facciamo, parliamoci chiaro, dei mestieri che con la politica in qualche modo c'entra. Ma infatti vedere. Poi c'è anche l'altro personaggio, cioè il presidente, no? A me piace molto il fatto che questa serie TV riesce a raccontare il dramma della decisione, cioè il concetto di decisione in politica. Sì, come la parte, diciamo, politica, quella del presidente e del suo spin doctor, esatto, appunto, del tuo consigliere, quella è come se fosse, come dire, la versione buona di House of Cards, insomma, sì. una versione per persone per bene, diciamo così, perché lì ci sono conflitti veri. E peraltro la cosa piuttosto anomala è che questa parte della politica viene descritta non come solitamente si descrive la politica, perché sono grandi, come dire, scelte morali a cui è chiamato il presidente con il suo consigliere, diciamo che consegna un certo grado di nobiltà alla politica, diciamo la verità, cosa che non avviene tutti i giorni, perché invece solitamente, appunto, la politica viene descritta in tutt'altro modo. Molto vero. Interessante anche la dialettica tra il presidente e il suo, diciamo, il suo spin doctor, il suo consigliere per la comunicazione. E quindi aspettate tutte e due Narcos, devo ancora finirlo per Narcos, forza. Devo ancora finirlo, ma adesso io nel frattempo mi vedo Prison Break. Ecco, tu cosa hai scelto dopo Narcos? Prison Break. Okay. Prison Break. Mi segno anche questo. Invece vagamente deluso un pochettino da Orange is New Black. Ah, no, invece mi piace storia tanto. È da femmine. Anche a me. Però non so, non ho ancora, a un certo punto l'ho abbandonata perché mi pareva un po' troppo artefatto. volta. Ma poi guarda, riprendila, perché poi nelle ultime stagioni ci sono delle cose belle. Ci invece risentiamo, Claudio. Che per vedere questo Narcos, per parlare con voi, ho interrotto a metà Downton Abbey. È gravissimo, ecco, ragazzi, questo, gravissimo. Che quello è proprio Narcos, da femmina. Quello è proprio da femmina. È proprio da femmina. Grazie, Claudio. Grazie, Claudio. Ciao, Claudio Velardi. Grazie a voi, arrivederci. Daniele, come passa il tempo quando si parla di serie TV. Quanto ci si diverte. Oh, l'ora più bella del sabato. Vabbè, ci ritroviamo sabato prossimo con Radio YouTube. Ciao, lo dico solo a te. Ciao. Al prossimo sabato.